La mia rima è troppo besa, il mio flow qui non ripiega, la mia voce è troppo tesa, pagami per ogni spesa, in armeria fai la spesa, la Borgotti è in attesa, spacco culi, miccia accesa, quattro frecce per la strada, non capisci, torna a casa, la tipa celebro lesa, parla troppo bocca in tasa, sparo missili nel culo come missili alla NASA. Ok, qui si vola, fotto la vita troia, egocentrico stile, Don Gradi vince ma scisa. Ok, qui si vola, fotto la vita troia, egocentrico stile, Don Gradi vince ma scisa. C'è che il mondo se ne sbatte, ma se ne sbatte tanto, Don Gradi vince ma scisa, un solo idioma conta. C'è che il mondo se ne sbatte, ma se ne sbatte tanto, Don Gradi vince ma scisa, un solo idioma conta. Scisa, grida forte il mio nome. È musica maestro, testo, estrosterone. F-Pedra, break me off. Italiano originale, Buddy Valastro. Mi becchi a comporre dentro ad un bistro. Mi becchi con la gente russa, cara show. Cac della, Revoke, Range Rover, Evoke, Big Money, con your boys, gimme book, boom! Imprenditore, a ste troie come il fisco, le metto un po' sotto pressione. Fame d'affari, facci i conti, quando siamo a tavola, parlami di soldi. Okay. Partita IVA, pro esperto, il migliore è Robert Redford. Ambizioso di natura, buttati in strada, il mio passo in alto, fallito bada. Ok, qui si vola, fotto la vita troia, egocentrico stile, Don Gradi vince ma scisa. Ok, qui si vola, fotto la vita troia, egocentrico stile, Don Gradi vince ma scisa. C'è che il mondo se ne sbatte, ma se ne sbatte tanto, Don Gradi vince ma scisa, un solo idioma conta. C'è che il mondo se ne sbatte, ma se ne sbatte tanto, Don Gradi vince ma scisa, un solo idioma conta. Siamo rap imprenditori, investo soldi creditori, Deo solo Invictus, futuri milionari. Cito questi quattro froci, bimbi minchia Tamagotchi. Se sono un Terminator, corrotto peggio di Moji. La morale non la tengo, né domani né oggi. Io come un vescovo, diamanti, oro, tu sfoggi. Prada, Gucci, Monte Carlo, io non penso quando parlo. Tu vuoi fottere con me? Zitta troia, non negarlo. Gotti è pazzo come scisa, per i soldi carta visa. Qui nel centro di Milano, fumo smog, fumo ghisa. Io parcheggio in doppia fila, Lamborghini come fila. Faccio quello che mi gira, se ti guardo, chi mi tira? La mia vita non si spiega, la mia schiena non si piega. Vivo al di sopra, nega, prete, io non vado in chiesa. Vado in banca, ho l'intesa, la vittoria è contesa. Amo zoccole da chiesa, sodomizzo, niente attesa. Ok, qui si vola, fotto la vita troia, egocentrico stile, Don Gradi vince ma scisa. Ok, qui si vola, fotto la vita troia, egocentrico stile, Don Gradi vince